c'è nessuno? Francis. Franco, se ci sei, cambio passo. Ciao Antonio Sbadiglio. Quante volte sai, a pezzi ero, non stavo bene proprio niente. Quando si è stanchi, Antonio, è così, ti capisco. Ma non stavo neanche bene in salute. Non stavo proprio bene. Ma hai migliorato oppure sei ancora così? No, già ho migliorato. Io non riuscivo manco a parlare. Ho preso troppo freddo a Bonorva, In quel cavolo di carro, del cavolo. Se avessi saputo, avrei fatto a fare un furgone, io carico già tutto, mi sono candente. Perché veramente, qua. Il carro non riusciva, perché ho allestito un carro, poi è un varaggioso, per scaricare l'impianto, che avevamo piazzato l'impianto sopra questo carro, perché c'era carnevale. Un casino, raffa me ne faccio finire dai tre. Gabriele, ma ho finito dai tre di Manzano. Vabbè, quello è lavoro, purtroppo è quando è così, o si va o non si va, quindi se si va bisogna combattere, se non si va non bisogna lamentarsi. Vai al santo di Babbo Doglio, ma ti pare che mi tiri i capelli, Gabriele? Mamma mia! Cada mattina tu ripeti, ma te ne immaginate, adesso li taglia a zero, non me li tiri più. Così è. Vediamo un attimino, aspetta un attimino che voglio fare una cosa se riesco. Invia su WhatsApp, vediamo un attimino. Tocca più WhatsApp.